bisogno di questi versi in certe circostanze. In questo perverso gioco la parte di chi stringe sempre meno carte. Più perdo le speranze e più sento domande sul futuro, ma il presente è un flashback costante. Ricordi che si fondono con tutto ciò che trovo, lo sguardo ansioso di chi cerca qualcosa di nuovo. Mentre il corpo si dirige avanti senza riposo, il mio pensiero sembra proseguire a ritroso. E ogni parola che spreco senza valore e scopo, ogni persona che realmente sa quello che provo. Un'immagine fuori fuoco suggerisce il modo di spiccare il volo solo dopo un salto nel vuoto, verso l'ignoto, sopra le ali di un pensiero sporco che a sta foto ricordo ha aggiunto un volto nuovo. Io non imploro il tuo perdono e sono sempre in gioco, è il tuo momento e bruci lento dentro a questo fuoco. La fronte mi si asciuga anche se ancora fuori piove, è già l'ora di chiusura e sono ancora sto bancone. Giulio, fammi pure l'ultimo room cooler, così almeno anche stanotte scorderò le mie paure. Sarà che il più grande dei miei mali è che comprendo, sarà sto sole spento, sarà il fumo, sarà il tempo, saranno tutte ste ore che sto sveglio. O sarà il margine di errore che più spinge più lo estendo. E cazzo, le bombe io le fabbrico con dentro rime al plastico, le piazzo, ma poi perdo l'innesco. Non riesco, torno a casa silenzioso e senza ombrello. È la noia di sti tempi, la gran ladra del tuo tempo. E qui è il malessere comune che ti porta a fare il peggio. Esorcizzo su sto palco, ma poi dopo non mi fermo a fare il capobranco. Intanto, fra poco sarò a casa tu per tu col foglio bianco. Se sarà colpa di quello che ho visto, quello che ho vissuto, sarà che recitare in questa farsa non mi è mai piaciuto. Sarà che preferisco stare muto piuttosto che dire cazzate con discorsi privi di un senso compiuto. Sarà che di pazienza non ho mai avuto, sarà il susseguirsi degli eventi che me l'ha sottratta a mia insaputa. Fatto sta che qua noia e monotonia creano un vuoto che ingoia tra picchi di gioia e picchi di follia. Che vuoi che sia se non un altro giorno in cui cambiano tutti e tutto tranne lo sfondo che abbiamo attorno. Qui ripongo di sicuro meno di quello che devo al mondo, che a volte è secondo solo per poi non grattare il fondo. Sarà che non ha più importanza darsi spiegazioni, qua in sostanza ne abbiamo abbastanza delle tue opinioni. Quindi me lo stendi il beat così ci spreito sopra, in modo che lo sfondo di sta città in coma lo ricorda. È il paradiso degli stronzi, ma prevedo tempi bui. Qua è la vita che ti abito a calpestare le ambizioni altrui. O te o lui, non c'è peso di perché, ma se lo uscite con i piedi avanti molto meglio voi che me. Seguo un percorso senza se, senza ma, dammi un capro espiatorio, fotto un cazzo della tua realtà. Nella di qua ci si guarda le spalle a vicenda, solamente se incrementa un po' l'eredità. La verità fa male, resta un pugnale piantato nella coscienza finché uno dei due scompare. Non c'è tempo di scappare, la prigione dei pensieri sottomessi a pressioni in preda a vita normale. Qui vale tutto, quindi escludo in partenza la tua innocenza, anche se percepisco assenza di numeri. Uno, uno, fotto un cazzo di nessuno. Due, ti piace bene, non ti piace, vai pure a fare. Una poesia fatta di sputi, merda, di insulti incompiuti, lamenti imbevuti, risentimenti scaduti. Senti, spegni già adesso se ti aspetti i contenuti. Non analizzo rifiuti di caproni sordomuti. Io non seguo un codice, non ho regole logiche, solo visione e collezione di reazioni allergiche. Fanculo a te che dici di volermi bene, fanculo. Tuo amore brucia ma puzza di cherosene. Fanculo a chi mi guarda e vede un bravo ragazzo, giuro che oggi t'ammazzo e sorrido mentre lo faccio. Fanculo a tutta la birra che bevo, fanculo la puzza di piscio di questa merda in cui vivo. Fanculo a me stesso ogni volta che riprovo che convinto sia diversa, non c'è mai un cazzo di nuovo. Fanculo alle donne, al lavoro, è quello che abbiamo. Fanculo al denaro, in culo all'essere italiano. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse.